La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 55. Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Con l'articolo 55 si apre la parte seconda della Costituzione, quella dedicata all'ordinamento della Repubblica, cioè la parte che riguarda specificamente quelli che sono i poteri dello Stato, le loro funzioni e le loro attribuzioni. L'ordine in cui la Costituzione pone questi organi è molto significativo, perché si comincia dal Parlamento, il Parlamento che è l'organo rappresentativo per eccellenza, poi viene il Presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione, e ancora il Governo, gli organi ausiliari, la magistratura, le autonomie e infine la Corte Costituzionale. La collocazione topografica di questi organi rappresenta direttamente l'albero con cui il Costituente ha voluto impiantare il nostro ordinamento, dove il Parlamento svolge un ruolo centrale. L'articolo 55 è l'articolo che riguarda il bicameralismo. Infatti ci dice in maniera molto semplice che il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Quindi l'Italia ha un bicameralismo perfetto. Cosa significa bicameralismo perfetto o paritario? Che tutte le funzioni parlamentari debbono essere svolte da due camere sostanzialmente uguali nella composizione e soprattutto uguali nelle funzioni. In Assemblea Costituente si discusse molto di quale sistema parlamentare avere, se un sistema addirittura monocamerale con una sola camera o un sistema bicamerale differenziato, differenziato nel senso di affidare alla seconda camera la rappresentanza di alcuni enti particolari. Per chiarirci, normalmente la seconda Camera, il Senato, in molti stati diventa la Camera delle Regioni e quindi il bicameralismo si differenzia perché abbiamo la Camera della Repubblica, la Camera del Popolo e una seconda Camera che invece rappresenta le Regioni. Invece i Costituenti scelsero il bicameralismo perfetto paritario. Quale forma di garanzia, quale forma di ripensamento, rimeditazione affinché le decisioni venissero prese in maniera consapevole? Del resto sappiamo bene che il grande timore dei Costituenti era quello che si potesse nuovamente arrivare a forme di dittatura e che paradossalmente la dittatura fascista si era insediata rispettando le regole, rispettando lo statuto, rispettando le leggi. Ecco allora che nella divisione dei poteri i Costituenti cercano di creare un sistema bilanciato, un sistema di freni e contrappesi dove nessun organo ha troppo potere, per cui sarà sempre bilanciato, frenato e controllato dagli altri poteri. Ecco la radice del bicameralismo. Negli ultimi anni, negli ultimi decenni, si è spesso detto che questo bicameralismo è anacronistico, perché ormai siamo in una forma completamente diversa di società, per cui non serve più avere due camere uguali. Sicuramente i tempi sono cambiati e probabilmente è opportuna una riforma, tuttavia per riformare il sistema bicamerale occorre avere le idee chiare e capire quindi se creare un sistema monocamerale che è un sistema molto più snello e veloce oppure andare a sistemi di rappresentatività differenziata dove il Senato ad esempio può rappresentare i territori, ma a quel punto si va verso un sistema federale in cui le due Camere bilanciano rappresentanza del popolo e rappresentanza dei territori.